Ciao Majin Buu, sono Alessio. E ho capito che ho fatto una grande cavolata. Per me finisce qui, cioè. Per me è... Per me ho voluto solamente far capire che... Ciao a tutti ragazzi, buone cose.